apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ci sono molti che parassitano la cultura, tu sei uno di questi. Ecco, ti definirei propriamente un parassita della cultura umanistica, naturalmente, perché è soprattutto nel campo umanistico che si trovano queste perversioni. Ti saluto. La radio del Sole 24 Ore perde proprio con una trasmissione così scandalosa e che incita al male. È proprio una vergogna. Bene, datemi pure del masochista, a me corrobora la mattina sentire questo calore affettuoso che mi circonda. Una mattina abbastanza perigliosa, reduce da un tunnel luminoso in fondo al quale vidi ciò che si nasconde nelle viscere della terra. Ciao Nicoletti, ho sognato l'altra notte che eri al tavolo del poker al Casinò di Venezia con Emilio Fede, Briatore, Francesco Pazienza, Roberto Calvi, Marcinkus e basta. A un certo punto, gioca che ti gioca, e sei andato in bagno. E lì il mio sogno si è interrotto e volevo sapere cosa che vuole significare. Ti saluto tanto, ciao. Devo dire che esiste un sottile nesso profetico con la telefonata di questo ascoltatore che mi vide a Venezia giocare a carte a un casinò. Io in realtà nel momento in cui lui sognava stavo molto vicino a Venezia, anzi stavo proprio a Venezia in una nottata perigliosa che mi costò 8 ore di attesa in un aeroporto, una corsa nella notte per arrivare in un luogo a Vittorio Veneto che mi fece scendere nelle viscere della terra lungo un fiume in un ex cementificio, una sorta di grotta sotterranea attraverso dei ruderi, almeno così la vidi. Cominciai a pensare, a riflettere cosa si potesse celare sotto l'apparente tranquillità di una città, in quel caso una cittadina, ma questa mattina arrivando a Roma ho preso la metropolitana e quindi mi sono reso conto che tutti i giorni io faccio un cammino sotterraneo, entro nelle viscere della terra e riesco fuori alla luce e passo sotto una città, ma cosa ci sarà sotto il sotto che sto attraversando io? Molte volte camminando lungo una strada non ci rendiamo conto di quelle che sono alcune linee sottili, quasi dei percorsi psichici che corrono sotto la città. Sono esattamente i residui di ciò che c'era sotto quella città, delle tante città stratificate, delle opere degli uomini, delle opere che gli uomini hanno fatto per rendere migliore la propria vita, quindi le fognature, quindi i passaggi di tutte le condutture possibili e immaginabili, fino alla rete che ci rende così vicini ad ogni altro nostro simile in ogni parte del mondo. E poi andando ancora sotto, ciò che gli uomini hanno costruito sottoterra per mettersi in contatto con la divinità, l'assoluto che si trova probabilmente oltre il nostro colpo d'occhio, che può spaziare al di là delle stelle, almeno con l'immaginazione, per essere ricevuta, conosciuta e per avere un rapporto profondo occorre andarla a cercare nelle viscere della terra, quindi tempi, sette segrete, camminamenti e poi ancora. E poi ci sono state le guerre, ci sono state le rivoluzioni, ci sono state le persone che si nascondevano sottoterra, le persone che creavano città nascoste, sotterranee. Io vengo da una città che è Perugia, che è una città il cui vero potere di quella città si è stabilito attraverso alcune linee sottili che viaggiavano sottoterra. Sottoterra ci stanno i cunicoli della Rocca Paolina, un'intera città medievale che è stata cementificata da un papa e aveva fatto la sua rocca per resistere contro la civilizzazione del mondo moderno. E allo stesso tempo un'infinità di sette segreti, di massoni, di framassoni e di spiritualisti per anni sono incontrati e ancora tuttora si incontrano in quella città sotto le viscere della terra. Il vero potere di città come Perugia è sottoterra, ma questo probabilmente avviene con gran parte del mondo. Beh, l'indagine e la conoscenza di ciò che si cela nel sottosuolo, di ciò che in assenza della luce diretta probabilmente potrebbe, perlomeno nelle più idealistiche delle raffigurazioni, aprire delle luci interiori, è diventato anche trattazione profonda di una gran parte di narrativa filmica. Uno degli eroi più fulgidi dei miei figli è proprio un archeologo, un personaggio che attraverso misteriose avventure riesce a cogliere ciò che rimane di antichissime civiltà e del filo ininterrotto che ci lega con il passato. della millenaria civiltà romana non tutto è andato perduto. Ecco. L'affascinante mondo delle catacombe, ad esempio. Vedete, esse erano dislocate lungo due linee principali che per comodità chiameremo A e B. No, si chiamano A e B. È la metropolitana, non sono le catacombe. L'idea... Sì, Angela, ha preso la scala mobile al contrario, ma lei è di fuori, scusi. Ma quanto erano profonde queste catacombe? Ma non sono catacombe, Angela. Per visitare questo posto occorre sborsare addirittura 1500 lire. È il biglietto. Oh. Ma come? No, non scavalchi, non è educativo. No, lei fa un programma... Angela! Nelle raffigurazioni grottesche che invece la televisione fa, dei miti del cinema che hanno tuttora una loro dignità perché in fondo si rifanno un filo letterario, rimane memorabile la contraffazione che Neri Marco Re fa di Alberto Angela, che a sua volta è la contraffazione di suo padre, questa volta è la contraffazione di ogni profonda analisi del sottosuolo come luogo misterioso attraversato da linee sottili non spiegabili dalla scienza degli uomini. Beh, il sottosuolo in per sé è un luogo quanto mai ambiguo. Ma quanto voi siete stati attratti da Discesa nelle viscere della terra, quanto voi vi siete domandati cosa si nasconda sotto i vostri piedi quando calpestate il percorso quotidiano che vi porta magari da casa all'ufficio, quanto vi interessa sapere cosa ci sia sottoterra? 800 24 00 24. Questa linea di colore giallo rappresentava simbolicamente il confine tra la vita e la morte. La morte se passa il treno, Angela, sii attento, Angela! E questa cos'è? Il treno. Una cripta inesplorata. Sì, buonanotte. Vabbè. Pensate, da 2000 anni nessun uomo ha messo più piede in questo luogo. Ma non credo, guarda, ecco. Ma perché tutti proprio adesso? Sarà l'ora di punta. Scusi. In questo ossario, vedete? Ossario. Sono sepolti migliaia di cristiani. No, guarda. Se ne avverte persone... ancora la presenza. Sì. Devo dire che chi abita in una città come Roma è molto fortunato, è continuamente in contatto con il mondo ipogeo, il mondo sotterraneo, ripeto, la metropolitana, semplicemente per arrivare qua. Non parliamo di tutti gli scavi archeologici che hanno ormai, ahimè, la mesta sventura di essere frequentati da frotte di turisti. Pensare che i turisti giapponesi a Roma vanno a vedere la cosa più tarocca, che è la Bocca della Verità, e fanno lì lunghe file per mettere la manina, facendo ok con il pollice dell'altro dito, dell'altra mano, dentro con la Bocca della Verità, messa lì non sa bene per quale motivo. Balzano è diventato il luogo di maggiore attrattiva di una città che in realtà esiste più sottoterra che sopra. Cosa c'è sottoterra a Roma? Non lo so. A pochi passi dal percorso che faccio quando esco questa radio per andare al mio giornale esiste una cripta di cappuccini all'inizio, appunto, a un lato di Piazza Barberini, dove i frati cappuccini hanno costruito con le ossa i loro confratelli scomparsi da secoli o da anni dei misteriosi ghirigori sul muro, quasi degli arabeschi. Hanno costruito delle costruzioni, delle meravigliose rappresentazioni artistiche con i teschi, con le tibie, con le scapole, le costole, le dita scheletrite dei loro confratelli. E andando avanti c'è un'infinità di catacombe, di luoghi sotterranei. Fino lungo Porta Pinciana i piccoli tunnel di sicurezza fatti per opere elettriche, non so bene per quale, ci sono delle cabine dell'energia elettrica, che sono pieni di letti di fortuna dove dormono rumeni e un'altra infinità di stranieri. Ogni tanto li mandano via e poi tornano dentro. Quindi esistono ancora delle popolazioni che abitano le viscere della terra. Ci sono luoghi al mondo che sembrano mostrare sfacciatamente le loro incongruenze. Facciamo un punto sulla cartina geografica. Medio Oriente, Libano, il sito si chiama Baalbek, una zona martoriata dai conflitti. E siamo arrivati lì con le nostre telecamere, correndo anche qualche rischio per mostrarvi dei segreti, dei misteri splendidi, tutti alla luce del sole. Una volta con mio cugino abbiamo ritrovato l'ingresso ad una di queste tombe sotterranee. È lì che li abbiamo trovati. 800 24 0024. Esistono le rappresentazioni televisive che creano l'epica del sottosuolo attraverso, a volte fantasiose, a volte con dei brandelli di realtà, ricostruzioni di questa ansia di andare a trovare ciò che appartiene alla nostra memoria, che è sepolto nel viscio della terra. Ma esistono anche maniere molto semplici, molto immediate, molto dirette per andare a visitare il mondo sotterraneo. Ce ne parla questa mattina Gianluca Padovan. Gianluca Padovan, buongiorno. Buongiorno. Io ho fatto un quadro emotivo di quella che è la percezione del sottosuolo nell'uomo contemporaneo. Lei ha scritto un libro molto interessante, ecco qui davanti, Archeologia del sottosuolo, manuale per la conoscenza del mondo ipogeo, editore Murzia. Quindi cominciamo questa mattina a dare alcune idee dei percorsi possibili nel sottosuolo di una città. Allora, innanzitutto devo dire che sono rimasto colpito dal suo inquadramento. Ha parlato dando una pennata di fascino a quello che c'è nel sottosuolo. In realtà direi che effettivamente il sottosuolo di fascino ne ha parecchio. Si avvicina sempre più il momento che lo abiterò, come succede a ogni essere umano, quindi è bene che cominci a abituarmi. Allora, l'unica certezza che noi esseri umani abbiamo su questa terra è di morire, quindi secondo me ogni mattina che ci si sveglia bisognerebbe ricordare ciò per condurre la propria giornata, ma al di là di questo. Ma non è sempre un luogo che però ispira sentimenti di morte. Andare sotto terra è pieno di fascino, è anche molto romantico. Riuscire a fare una bella passeggiata romantica al di sotto della linea di camminamento degli esseri comuni può avere il suo fascino. Assolutamente sì, anche perché noi generalmente, guardando i film d'avventura che si fanno del sottosuolo, non percepiamo la cosa fondamentale, cioè sotto è il regno dell'acqua. Allora pensiamo che esistono degli insediamenti che necessariamente devono avere acqua, perché magari si trovano in zone desertiche oppure in zone montane dove l'acqua non è immediatamente fruibile. Sotto generalmente rimane tutto quanto l'impianto per l'approvvigionamento idrico di un paese, di un villaggio, di una città, ed è fatto innanzitutto di pozzi oppure di cisterne per la conserva dell'acqua meteorica, o nel caso di Roma, dove vi è una rete estesissima di gallerie, vi è l'acqua di condotta, cioè l'acqua portata dagli acquedotti che generalmente hanno uno sviluppo sotterraneo. Ci stanno anche tante pantegane però, ecco. Ma negli acquedotti è difficile, le pantegane le trovate più che altro nelle vostre nei vostri eccezionali sistemi di fognatura che risalgono come. Quindi esiste, diciamo, una doppia possibilità di percorrere il sottosuolo di una città. Sì. Di solito queste immagini sono soltanto nei film di spionaggio o di grandi furti e rapine, quando si va sotto la città per uscire nel cavò della banca o qualcosa del genere. Sì. Ecco, ma voi che fate della speleologia la vostra passione, conoscete questi percorsi sottili? Lei ha scritto anche un libro su Milano sotterranea. E cosa c'è di misterioso in queste città, oltre quello che normalmente è il percorso più usuale di tutti i turisti, tutti i visitatori? Allora, il libro l'ho scritto con Ippolito Edmondo Ferrario, che è un giornalista e gallerista. E ci siamo, così, percorrendo questa nostra città dove abitiamo da ormai decenni, ma com'è possibile che sotto Milano, che ha una falda acquifera prossima alla superficie, quindi che scoraggia la costruzione delle gallerie, com'è possibile che vi sia questa grandissima rete di gallerie? E in effetti devo dire che un tempo Milano era un po' come una piccola Amsterdam, diciamo così, percorsa da un'infinità di canali, di rogge, di piccoli corsi d'acqua. Nell'ordine di circa un 250 km di Milano Interland, la gran parte di questi esistono ancora, ma sono stati voltati e quindi relegati nel sottosuolo. Ecco, ma al di là, diciamo, dello specifico della città di Milano, come si osserva la stratificazione della vita degli uomini osservando anche le opere sotterranee di una città? Perché c'è di tutto, io ho scorso il suo libro, ho visto che sono varie le categorie di umanità che hanno percorso, costruito, attraversato il sottosuolo. Ci faccio capire cosa si scopre entrando sotto una città senza essere necessariamente come i grandi archeologi di fronte a vestigia di civiltà antichissime o tesori preziosi. Innanzitutto nel manuale, come mi ha ricordato lei, abbiamo steso una catalogazione di quelle che sono le cavità artificiali che si possono incontrare anche e soprattutto al di sotto di una città. E noi abbiamo opere civili, può far ridere, ma cominciamo dalle cantine, dagli antichi, poi andiamo agli antichi criptoportici, andiamo alle opere di immigrazione, possono essere le catacombe come vi sono a Roma o in qualche altra città, e fino alle Mitrei, che sono i luoghi di culto dedicati alla divinità iranica Mitra, che anche quelli ve ne sono numerosi, diciamo, a Roma. Esistono anche dei luoghi di culto di religioni passate che sono stati ripresi e riappropriati da moderni frequentatori di culti simili o paralleli. Le è capitato mai di trovare luoghi dove ancora si officiano riti misteriosi, le persone vanno per rimettersi in contatto, non so, con qualcosa di sottile, di lontano? Sinceramente no, anche perché le confesso. Io amo fare operazioni e studi nelle opere idrauliche, nelle opere civili e in quelle militari, molto ma molto meno in quelle religiose e proprio per niente in quelle di inumazione. Quindi io evito generalmente catacombe, cimiteri, tombe. Quindi diciamo è il sotterraneo, la parte civile del sotterraneo, non quella religiosa dedicata al culto dei morti. No, quella mi interessa di più perché la ritengo molto più legata alla vita quotidiana e allo sviluppo dell'uomo. Ecco, ma i militari sotto le città facevano dei cunicoli per permettere poi di poter minare e far saltare zone nevralgiche della città, almeno in passato? Allora sì, certamente. Nel momento in cui noi abbiamo delle opere di fortificazione, l'avversario cosa cercava di fare? Superare le difese. Se non riusciva in superficie, si interrava. Quindi scavava dei cunicoli, delle gallerie per passare sotto le opere di difesa. Pensiamo semplicemente alla presa di Veio da parte dei Romani. I Romani scavano un cunicolo ed entrano all'interno della città di Veio e la prendono d'assalto, di sorpresa. Poi con l'avvento della polvere da sparo, nel momento in cui ci si trova di fronte alle fortificazioni cosiddette bastionate, cioè con mura molto spesse, basse e guarnite di cannoni, arrivava sotto le difese e piazzava delle camere riempite di esplosivo, le cosiddette mine. Per stornare questo pericolo, nel momento in cui si costruivano le fortificazioni delle città, le cosiddette cittadelle, le si dotava di opere di contromina, cioè tutta una serie di gallerie che con un andamento, diciamo, quasi simile ad antenne si spingevano nel sottosuolo per già diciamo poter intercettare e assorbire anche l'effetto. Senta, ci dobbiamo interrompere solo un istante e dare le informazioni per la borsa. Ridò il numero 800240024, vedo già su Facebook molti mi stanno dando loro impressioni sulla discesa del sottosuolo e molti mi chiedono come fa chi soffre di claustrofobia, ma penso per lui sia veramente impossibile. Avremo risposte tra un istante. Melog 2.0. Dottor Jones, abbiamo sentito parlare molto di lei. Ah, sì? Professore di archeologia, esperto di occultismo e ricercatore di antichità rare. Ieri pomeriggio le nostre centrali europee hanno intercettato un dispaccio tedesco inviato dal Cairo a Berlino. Ora, in questi ultimi due anni i nazisti hanno sguinzagliato squadre di archeologi in tutto il mondo alla ricerca di ogni sorta di oggetti religiosi e misteriosi. Hitler va matto per queste cose, è folle. È ossessionato dall'occulto. Vede, professore, in questo momento ci risulta che i tedeschi stanno effettuando scavi archeologici nel deserto proprio nelle vicinanze del Cairo. Noi qui abbiamo delle informazioni, ma non riusciamo ad interpretarle. Forse lei è in grado di farlo. Tanis, sviluppi promettenti. Acquistare amuleto, asta di Ra. Chissà quanti ragazzi sono iscritti alla facoltà di archeologia guardando la saga di Indiana Jones, che poi assomiglia molto poco a quello che è il mestiere reale dell'archeologo, però c'è una grande suggestione, rafforza quello che è una massima ermetica che ha sempre ispirato folle di ricercatori di pietre filosofali, di acque di salvezza, che visitando l'interiore della terra, lavorando su se stessi, si trova la pietra nascosta, ma la pietra nascosta non sempre è la pietra che dà saggezza e dà possibilità di trascendere dalla propria natura umana, ma molte volte è la pietra verde che i cattivi nazisti vogliono per conquistare il potere. L'archeologia non è una scienza esatta, non permette di calcolare tempi precisi. Il Führer non è un uomo paziente, esige rapporti continui e pretende dei progressi. Lei, Belloc, mi ha fatto credere. Non è vero, non ho fatto promesse. Ho detto solo che c'erano buone possibilità. E poi, con le informazioni in nostro possesso, i miei calcoli erano giusti. Però, stanno facendo sul serio. A che ora cade il sole nella sala del plastico? Intorno alle 9 di mattina. Non c'è molto tempo, allora. E dove scavano per il pozzo delle anime? Su quella valletta, ma la sala del plastico è laggiù. Bene, andiamo. Da Indiana Jones al mitico Giacobbo che viaggia, attraversa il mondo alla ricerca di raggi di luce che a mezzogiorno, il giorno del solstizio, colpiscono quel particolare punto della cattedrale dove è nascosto il mistero del Santo Graal, ma allo stesso tempo di tutta un'infinità di altre fantasie, mitologie, brandelli di realtà, informazioni misteriose sull'essenza dell'universo. Oggi tutto messo in un grande crogiolo diventa pura letteratura, ma allo stesso tempo forse è la maniera migliore per nascondere ciò che la saggezza delle sapienze occulte, perlomeno così dicevano, coloro che nascondevano i tesori sottoterra sapevano che la massima diffusione del segreto dei loro tesori li avrebbe maggiormente salvaguardati. 800240024, mi sembra impossibile che nessuno non sia curioso di sapere di più di ciò che si nasconde sottoterra, però vorrei, oltre al nostro ospite Gianluca Padovan, speleologo che abbiamo ancora in ascolto, introdurre un altro ospite. Dottoressa Maria Longhena, buongiorno. Buongiorno. Un'archeologa vera finalmente che può riportarci la realtà rispetto ai tanti miti di Lara Croft, ad esempio, una sua eroina collega, anche lei archeologa, che però si disbriga meglio con le Desert Eagle, le pistole a grosso calibro e con i suoi attrezzi del mestiere. Ecco, riportiamo una realtà. Io mi scusi la lunga introduzione, ma ho parlato spesso con giovani neolaureati di archeologia che vedo l'estate a fare scavi massacranti. Sono ragazzi molto volenterosi, ma molto poco considerati, almeno nella loro, in quello che mi hanno loro detto. Sì, diciamo che il lavoro dello scavo è un lavoro straordinario che richiede sicuramente passione, richiede anche però tantissima fatica, molto di più di quello che ci si possa immaginare. E l'archeologia effettivamente non è una frase fatta, però non è abbastanza considerata. Cioè l'archeologo viene ancora visto come o l'Indiana Jones, l'esploratore, l'uomo dell'avventura, oppure viene visto come il grattasassi, ecco. Quindi l'archeologia non ha ancora la giusta dimensione in generale nella visione collettiva. C'è un famoso film, sembra il secondo, di Indiana Jones, in cui il professore, che quando va all'università e parla ai suoi studenti, quasi per un grottesco racconto, lui che va da un'avventura all'altra, che passa per quell'altro, dice: ma l'archeologo vero è quello che studia le lingue, quello che passa tanto tempo sui libri in biblioteca, non soltanto quello che va a cercare i tesori sottoterra. Risponde a realtà a questo? Sì, è vero, perché archeologia, cioè lo scavo, che è pure una cosa così affascinante, è soltanto una parte. Lo scavo richiede preparazione, richiede studio, prima studio su libri, poi richiede studio del materiale ritrovato, quindi lavare i cocci, tutte queste cose che sembrano molto banali ma che sono fondamentali, disegno, riproduzione, ora tutto viene fatto col computer naturalmente rispetto ad anni fa, e poi il vero lavoro comincia dopo, cioè capire che cosa si è scavato, che cosa è stato trovato. Ecco. Quando è iniziato ad esserci una sensibilità nei confronti del sottosuolo? Io so che vengo da una terra profondamente solcata dal passaggio di Etruschi, Romani, Italici, va dicendo, sono umbro, quindi io so esattamente che le ville, le case dei notabili del posto sono piene di reperti archeologici, perché fino a un secolo fa circa tutto ciò che era sottoterra diventava un luogo di saccheggio, non c'è una grande sensibilità. Quando abbiamo cominciato a pensare che aveva un valore una ricerca sistematica nel sottosuolo? Ma è certo che fino nel periodo di cui lei parla, quindi appunto anche nel corso del secolo scorso, due secoli fa, fine 800, primi del 900, la figura vera e propria dell'archeologo non c'era. Quindi gli archeologi, anche quelli che hanno fatto storia, nella maggior parte dei casi erano persone tipo colti, studiosi, medici, che si davano da fare, e il discorso del saccheggio è vero sì e no, cioè chiaramente il saccheggio c'è stato e c'è anche oggi purtroppo, perché i tombaroli esistono, però bisogna ricordare anche grandi figure. Oggi hanno strumenti più sofisticati, una volta avevano un lungo ferro acuminato che infilavano sottoterra finché non trovavano qualcosa. Certo, ecco, però mi permetto di ricordare proprio a proposito dell'etruscologia personaggi importanti come qui in Emilia, il dottor Gozzadini ed altri, che hanno scoperto, fra virgolette, la cosiddetta civiltà villanoviana, quindi persone che comunque hanno dato un grosso contributo al mondo dell'archeologia. E ancora erano degli eruditi, come diceva lei, cioè delle persone che per loro passione iniziavano a fare questa attività in maniera sistematica? Certo, e poi che vivevano in loco, quindi parlavano anche con le persone del loco, con i contadini, le persone che erano a contatto con la terra. E quindi bisogna anche rendere merito, diciamo, a queste persone. Lei pensa che i contadini umbri, che conosco bene, molte volte usavano nei pollai le urnette cinerarie etrusche per mettere il mangime per i polli, non sapendone il valore reale? Mi è capitato di vederlo. Certo, sì, certo. Questo purtroppo succedeva, e oggi, in cui un periodo in cui invece queste cose si sanno, purtroppo i tombaroli esistono ancora, e come oggi è tutto un discorso lucrativo soltanto di soldi. Invece voglio tornare un attimo a Gianluca Padovan, perché come vede abbiamo messo in contatto due attitudini diverse, ma che in fondo avranno anche probabilmente in questi percorsi sotterranei dei punti di incontro. Lei in particolare, visto che ci siamo fermati solo agli aspetti dei manufatti civili degli esseri umani sotto le città, so che è andato nella zona di Triora, che è una zona molto segnata dall'aspetto leggendario e stregonesco. Ecco, nel sottosuolo di Triora cosa ha trovato? Beh, nel sottosuolo di Triora per il momento abbiamo trovato ben poco, anche perché più che altro ci siamo occupati delle faccende legate alle streghe, che io preferisco chiamare diane, cioè queste povere donne che sono state condannate alla tortura e alcune di loro pure al rogo. Comunque, la cosa più interessante direi è stato un probabile passaggio segreto che rimane nell'area dove sorgeva uno dei vari forti, delle varie fortificazioni che proteggevano Triora, che un tempo era un borgo molto importante, posto su una viabilità altrettanto importante che conduceva sia in Francia sia in Piemonte, e da cui passava anche la cosiddetta Via del Sale. Passaggio segreto di cui oggi rimane poco, sono una quindicina di metri su una galleria scavata nella roccia, parzialmente rivestita in muratura e dotata di una serie di scalini che ci portano in un punto dove poi non si riesce a proseguire, perché viene intercettata da un'altra galleria da cui è stato scaricato parecchio materiale di risulta. Capita spesso di trovarli, io sempre fermandomi agli aspetti leggendari, a volte semplicemente dati da un salace spirito popolare, in molte città sente parlare di misteriosi camminamenti che congiungerebbero monasteri di suore da monasteri di frati, qualcosa di boccaccesco. Accade veramente che in luoghi di culto o in luoghi dove ci sono religiosi ci siano poi questi passaggi di fuga, probabilmente? Allora, io in 30 anni di attività ne ho trovati 3 o 4, non di più, quindi tutto sommato. E come funzionava? Come erano nascosti? Le parlo del penultimo che abbiamo trovato qui a Milano e che sarà oggetto di un nostro prossimo libro sulla Milano sotterranea, e rimane sotto un altare. Sotto un altare c'è una sorta di pozzo, una parte è gradinata e poi finisce in un ambiente sotterraneo, purtroppo pieno di detriti, ma che comunque dà modo di pensare che fosse o un posto dove la gente poteva nascondersi o tranquillamente l'imbocco a una via di fuga. Beh, Dan Brown qualcosa avrà pur visto per fare la sua fortunata epopea. Melog 2.0. Credo che questa pietra sblocchi la porta. Non mi convince. Sicura che l'inscrizione dica così? Quell'affare sta arrivando. Hai un'idea migliore? La porta può essere una trappola. Siamo in trappola. Ancora non capisco come la Thailandia sia connessa ai vichinghi. O alle rovine sotto il Mediterraneo. O addirittura ad Avano. I miti usano nomi differenti, ma si riferiscono tutti ai resti del mondo antico. Uno di questi resti esiste ancora. Questa era Lara Croft, anche lei nasce come archeologa e si sa che ciò che si cela nelle viscere della terra è grande motivo di ispirazione. Gran parte della nostra epica contemporanea è fondata su misteriosi messaggi, misteriosi reperti o misteriosi significati nascosti sottoterra. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Sì, volevo chiedere ai loro ospiti. Com'è? Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ma non sentivo più. Com'è che la cultura, la scienza dell'archeologia nasce solo tra Europa e America e basta? Cioè, le altre razze culturali non hanno questo bisogno di catalogare, scoprire, cercare? Siamo sempre noi europei che andiamo sempre in Africa, in Sud America, in Estremo Oriente, a vedere com'era la civiltà del passato, a cercare poi nei resti, nei sottosuoli, catalogare. Cioè lei dice è una passione del tutto occidentale andare a cercare sotto. Ma non esiste assolutamente. Cioè, anche gli altri, se vogliono sapere il loro passato, può darsi che neanche gli interessi tanto, ma devono stare sempre a quello che cerchiamo noi, cioè noi speroli occidentali, che hanno questa voglia di cercare, scoprire, catalogare, sapere com'era, perché poi l'ultima a tutti fa piacere com'erano le cose del passato, o chi le ha fatte, o come e perché. Beh, diciamo, adesso le faccio rispondere agli esperti. La mia lettura è che in realtà l'uomo occidentale ha bisogno di supporti concreti alle proprie certezze. L'orientale in generale, lievemente più fatalista, costruisce in maniera molto più volatile e non ha questo attaccamento concreto alla pietra, all'oggetto simbolico concreto. Però magari le risponde meglio Maria Longhena, che è un'archeologa vera. C'ha un senso la domanda del nostro ascoltatore, che l'archeologia nasce come scienza propria dell'Occidente, quasi volessimo avere certezza concreta delle nostre fonti anche spirituali e storiche? Ma io non direi, cioè chiaramente è vero che gli europei, gli statunitensi scavano molto, però ricordiamoci che i giapponesi scavano moltissimo, per esempio il Perù, che è un paese di cui mi occupo, lavorano molto i giapponesi. In Cina ci sono tantissimi scavi, anzi i cinesi sono molto orgogliosi, diciamo, delle loro radici storiche, eccetera, quindi non direi che è un fenomeno da legarsi esclusivamente all'Occidente. Diciamo che c'è minore informazione probabilmente su altri tipi di popolazione che scavano, anche perché siamo legati alla nostra storia, sappiamo chi scava dalle nostre parti. Esatto, noi siamo un pochino comunque mediterraneo centrici o Europa centrici, per cui ci focalizziamo su questo, però in realtà ci sono tantissimi scavi attivi anche in Oriente. Sull'Africa non mi pronuncio perché conosco molto meno, però in Asia, in Sud America, eccetera, quindi non sono soltanto gli europei e gli americani. Grazie. Invece Gianluca Padovan, la sua passione di andare a cercare le opere dell'uomo che si stratificano, a volte anche piene di misteri, sotto le città, corrisponde a una attitudine prettamente occidentale o risulta che in tutto il mondo ciò accada? No, io devo un attimo dissentire, perché secondo me... Ma noi abbiamo città più antiche del resto del mondo, molto spesso. È assolutamente europea, e gli altri la fanno, diciamo, propria. Basti pensare semplicemente in Cina, come già tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento archeologi europei vadano a indagare le radici della Cina, e questo alla Cina non piace. Non dimentichiamoci delle mummie, delle cosiddette mummie trovate nel Turfan cinese, nel deserto del Tichinimacan, e queste non sono affatto cinesi, sono caucasoidi o addirittura europee, perché alcune di queste vestono il tartan. Lei pensi che all'anno zero o al 2000 avanti? Nella zona di Norcia, mi ricordo che ci andavamo spesso con i nostri amici ai tempi dell'università, c'erano delle mummie cinesi, non si sa come erano finite lì. Per andarle a vedere bisognava bussare una vecchietta, cioè apriva una specie di sotterraneo piena di mummie cinesi. Ci saranno ancora lì, non so bene. Ma lei, dottoressa Longhena, che si occupa soprattutto di mummie, trova dei punti di dissenso con il signore che ha appena parlato, lo speleologo? Io l'unica cosa, appunto, che sostengo è che in realtà l'interesse per l'archeologia, per la ricerca delle proprie radici, per rispondere alla domanda della persona che ha parlato, non esiste solo in Europa, ma come dicevo esiste molto anche in Asia e probabilmente anche in Africa, comunque sicuramente anche in Estremo Oriente, per non parlare poi del Medio Oriente. Abbiamo tantissime missioni di scavo che non sono solo europee o statunitensi, ma che sono di archeologi locali, quindi medio orientali, estremo orientali, eccetera. Ecco. Il discorso delle mummie cinesi è vero, nel senso che la scoperta di queste, tra l'altro è una cosa interessantissima, delle mummie del deserto di Taklamakan, che sono di etnia caucasica e quindi non mongolica, ha suscitato piuttosto scalpore in Cina. Ma questo è un altro discorso, insomma, dove sono abbastanza conservatori e per loro è abbastanza difficile ammettere l'esistenza di radici antiche caucasiche, cioè di genti, diciamo, per parlare in termini semplici, di origine bianca europea che in un qualche modo frequentavano queste zone della Cina, già nell'età del bronzo. Questo è comprensibile quanto a volte sia difficile anche superare un senso di disagio che è fortemente attaccato a un'idea rispetto alle proprie origini e alla propria genealogia. Fausto, buongiorno. Buongiorno, io mi sento un po' spiazzato, nel senso che io avrei voluto portare semplicemente una testimonianza un po' aneddotica di un viaggio recentemente. La può portare, basta la fare brevemente. In Spagna, però adesso mi sento anche un po' chiamato in causa dalle ultime osservazioni. Parto con la prima osservazione. A Requena, nella comunità valenciana, c'è un magnifico esempio di città ipogea, privata della sua città soprastante, che è stata poi distrutta per creare una Plaza Major, e è una città operativa, una città viva dove si elaborava il vino, per cui in queste enormi cavità comunicanti scavate nel substrato calcareo ci sono queste sequele quasi colonnare, anche molto scenografiche, di enormi olle vinarie connesse con un sistema di tubazioni mobili, linee ai torchi che venivano posti nei cortili, nei patio superiori, che servivano appunto a... Guardi, molte volte la civilizzazione contemporanea tende a stratificare, a sovrascrivere le civiltà passate. Endius da Catanzaro. Buongiorno, io volevo portare alla conoscenza del vostro esperto padovano e anche degli ascoltatori un camminamento ipogeo piuttosto noto peraltro nella nostra città, che collega tutte le chiese e i vecchi conventi della città, oggi caserme, distretti militari oggi, ma una volta vecchi monasteri. Con me che questa leggenda dei tunnel segreti è una leggenda peraltro piuttosto nota nella storia della nostra città, è conosciuta diciamo in città. Le faccio un esempio: Palazzo dei Nobili, che oggi è la sede del comune, nel 1800 era un palazzo di un nobile, e chiaramente si sa la storia di questo camminamento ipogeo tra il monastero di Santa Chiara, che oggi è un distretto militare, e da questi camminamenti ipogei si incontravano una suora e il figlio di un notabile di allora, proprio attraverso questi camminamenti. Di recente sono stati ristrutturati in parte, e nella parte alta della città, dove ci sono i resti del castello del Guiscardo, si può visitare per qualche 300-400 metri questo camminamento. Guardi, le sono molto grato, Endius, la devo interrompere che stiamo chiudendo la trasmissione, però lei mi dà splendidamente il fianco per fare una proposta al pubblico e ai nostri ospiti. Questa trasmissione è iniziata con una stanca adesione del pubblico, è chiaro, la gente ascoltava. Improvvisamente vi siete scatenati, qui davanti un'infinità di storie sotterranee. Ecco, io raccoglierò le vostre storie sotterranee delle vostre città, le metterò assieme, ne farò una sorta di radiodocumentario e ci risentiremo tra non molto, se voi andrà bene, se voi contribuirete a questo nostro gioco, raccontando come vedete le città sottoterra. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.